Voi siete mai stato innamorato? Innamorato? Parecchie volte. Davvero? Ah, sì, certo. Aristotele, Ovidio, Virgilio, Tommaso d'Aquino. No, io intendevo... Ah? Non è che tu confondi l'amore con la lussuria? Ah, sì? Non lo so. Voglio soltanto il suo bene. Voglio che sia felice. Vorrei salvarla dalla miseria. Ai, ai. Perché ai, ai? Sei innamorata. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Anche oggi mi suonerò qualche storia. Le vostre dediche o volete far sentire il vostro pensiero, le vostre proteste, proteste, i vostri dubbi, mandatemi il vostro SMS al numero 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Capito? Cammino del Gigi D'Agostino. Il tuo sogno è il tuo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino.

Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sappia che sto suonando io. Le vostre proteste, i vostri dubbi e altre storie. Sì, sì. Mandatemi il vostro SMS SMS al numero 333-64-67-662. Thank you. di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. Quanto sarebbe quieta la vita senza l'amore. Tanto sicura, tanto calma, tanto noiosa. Thank you.

facciano parlare. Voglio ridere, voglio bere io. Stasera cambia amore tutto qui. Ma sapere dove andare, come sapere cosa dire, come sapere dove mettere le mani. E non so nemmeno se ho capito quando t'ho perduta. Rifioriscono le rose, ma dentro casa inverno e fuori no. E vendo casa per un motore, la soluzione è la migliore. Un motore certamente può tirare. La mia fantasia è un po' danneggiata, da troppo tempo parcheggiata. E poi cambiare casa, come cambiano le cose. Ci sentiamo domani. Grazie.